Capitolo 43. Anversa. 2 giugno 1538. Ha visto il carico? Sì. Le navi? Sì. Ha sollevato obiezioni? Qualche domanda sulle rotte che intendevamo seguire. Lazzaro Stücker, il re di vivo. Gottfried Pöllnitz, il mago dei numeri. Scuote la testa, sconsolato. Devono credersi onnipotenti. Sono talmente sicuri della loro forza che non riescono nemmeno a pensare che qualcuno possa cercare di fregarli, gran bastardi. Beh, è una sicurezza che ci fa a gioco, no? Gotz ignorò la domanda, inseguendo le sue riflessioni. Ha accettato per 15.000 fiorini? Non ha battuto ciglio. Ha chiesto che gliene depositassimo 3.000 in garanzia, che ci restituirà dopo la prima spedizione. Ho fatto come hai detto. Glieli ho prestati senza fare storie, così che pensasse che abbiamo una notevole disponibilità monetaria. Bene, ma se ci fossi stato io al suo posto, non sarebbe andata così liscia. Allora siamo fortunati che stai da questa parte. L'ex agente dei Fugger mi versa un bicchierino. È il caso di brindare. Sei stato bravo. Il primo passo è fatto. La chiatta su cui Lazzaro Stücker nasconde il segreto della sua esistenza è nascosta in un'ansa del fiume. Dentro sembra una casa normale, se non fosse per gli oggetti strani appesi alle pareti, che pendono da ogni angolo, spade, pistole, strumenti musicali, mappe, il guscio lucido di una testuggine. So che farei meglio a stare zitto, ma non capita spesso di incontrare un personaggio del genere. Eloy mi ha raccontato la tua storia. Non sembra sorpreso. Ha fatto male. Se ci prendono, meno sappiamo gli uni degli altri, meglio è per tutti. Mi accomodo sulla poltrona di cuoio. Vuoi dire che Eloy non ti ha detto niente di me? Gotz alza le spalle. So soltanto che sei stato a Münster con i pazzi. E ti dico in tutta sincerità che se le tue credenziali fossero state quelle, non ti avrei mai preso nell'affare. Ma Eloy ha detto che sei la persona giusta e io mi fido del suo fiuto. Uno che è riuscito a rimanere a galla per 20 anni, in mezzo ai pescecani di questa città, senza farsi fottere, deve saper valutare gli uomini. Sogghigno e scollo il liquore. Hai ragione, erano dei pazzi. Ma hanno espugnato una città. Tu l'hai mai fatto? Gli occhi di Gotz sono due punti scuri, sprofondati tra le cicatrici. Non ha bisogno di rispondermi. Sembra che l'anabattista e il mercante si intendano bene. Bisogna essere dei fanatici per tentare imprese del genere. Bisogna crederci. E tu? Ci credevi davvero? Una buona domanda. Diciamo che non era il denaro ad attirarmi, allora. Sorride e si riempie un secondo bicchiere. La vuoi sentire una storia davvero interessante su Münster? Qualcosa che non so già? Qualcosa che sappiamo soltanto io, Anton Fugger e forse il Papa. Suona come un segreto di Stato. Annuisce sornione, lisciandosi i baffi. I gabbiani strillano fuori dalla piccola finestra. Il resto è silenzio. Agli inizi del 34 curavo gli affari dei Fugger a Colonia. È stato lì che ho appreso i trucchi del mestiere e tutto quanto serve per l'operazione. Fatto sta che un giorno mi recapitano una lettera su cui è segnato soltanto l'importo di una somma. Non c'è firma, solo un sigillo, una grossa lettera. Q. Una Q? Impressa sulla cera. Chiedo spiegazioni al contabile dell'agenzia, uno che sta al servizio dei Fugger da più di 10 anni. E quello mi dice che quando si riceve una lettera come quella bisogna preparare il denaro e aspettare che qualcuno passi a ritirarlo, mostrando il sigillo. Lo interrompo. Non capisco cosa c'entri in Münster. Gotz sussulta appena. Lasciami finire. A quel punto chiedo di saperne di più. Come si fa a dare soldi in mano a uno sconosciuto? Il vecchio contabile mi racconta che alcuni anni prima, da Roma, è stato aperto un credito illimitato presso le casse dei Fugger per un agente segreto attivo nei territori imperiali. Messer Q, lo chiamavano i contabili delle filiali tedesche. Una spia. Non interrompe la sua storia. Così preparo una lettera di credito per la somma richiesta e sto pronto a riceverlo. E sai chi si presenta? Un chierico, avvolto in un saio scuro, con il cappuccio calato sugli occhi a coprirgli mezza faccia. Mi mostra l'anello con la Q, identica a quella stampata sulla missiva. Però quando vede la lettera di credito, me la strappa in 1000 pezzi davanti al naso e dice che gli serve la moneta. Gli faccio presente che è pericoloso viaggiare con una simile quantità di denaro in tasca, ma quello insiste, vuole l'oro. E va bene, apre i forzieri e gli consegno quanto ha richiesto. Dopodiché mi chiede se posso indicargli un noleggio di cavalli che copra la distanza fino a Münster. Lo indirizzo alla scuderia più grande di Colonia. Resta zitto. La storia è finita. Un presentimento scuro mi preme in testa, ma non riesco ad articolarlo. Appoggio il bicchiere sul tavolo. Leggero tremore alle mani. Goz si aspetta una reazione. Non è una bella storia? Forse per espugnare una città servono dei fanatici che ci credano, ma per infiltrare una spia ci vogliono soldi. Ci vogliono i Fuggar. Il denaro c'entra sempre. Si accorge del mio disagio. La linea più scura del liquore nella bottiglia rolla piano insieme alla chiatta. Il guscio di testuggine manda riflessi color ebano. Un airone bianco taglia il pezzo di cielo incorniciato dalla finestrella. La mappa della costa inglese, nell'angolo a sinistra, in basso, ha una rosa dei venti che da qui sembra un fiore bianco e nero. Goz, sprofondato nella poltrona, non muove un muscolo. Goz, Lazarus, nomi diversi, uomini diversi, la stessa storia. Gustav Metzer, Lucas Niemson, Linar Jost, Gerrit Buchbinder, Lot. Nessuno è quello che sembra. Non so se ho parlato io o la voce di Goz, o soltanto il pensiero che mi rimbalza nella testa. Le domande escono da sole. Chi aveva aperto quel credito? Non l'ho mai saputo. Con ogni probabilità un pezzo grosso di Roma. Descrivimi quell'uomo, quello che è venuto a ritirare il denaro. Aveva la faccia coperta, te l'ho detto. Dalla voce non sembrava troppo vecchio, ma sono passati 4 anni. Mi sta assecondando. Ha capito. Si sforza. Ricordo che mi chiesi cosa ci andava a fare a Münster con una somma simile. Non che fosse spropositata, 2.000-3.000 fiorini, mi pare, ma perché affrontare un viaggio del genere con la borsa piena? Per non lasciare tracce, non destare sospetti. Lo guardo. Adesso sono io che devo riflettere a voce alta e ricambiare la storia. Agli inizi del 34, i battisti di Münster ricevettero le prime cospicue donazioni in denaro, contributi alla causa provenienti da varie comunità e anche da singoli confratelli. Stai dicendo che quei soldi sarebbero serviti a farsi amici i battisti? Quale miglior lascia passare per una spia? Di nuovo, ascoltiamo lo sciabordio lento della corrente, gli scricchiolii del legno. È lui a parlare per primo, tra finta modestia e incredulità. Non mi intendo troppo di questioni religiose. Spiegami perché Roma avrebbe dovuto infiltrare un agente nella comunità battista di una piccola città del nord. La risposta prende forma mentre la pronuncio. Forse perché quella piccola città del nord stava diventando il faro dell'anabattismo. Forse perché quella comunità avrebbe fatto il culo ai signori e innalzato il popolo laddove nessuno era mai riuscito. Forse perché qualcuno, con l'occhio lungo, laggiù, alla corte del Papa, se la stava facendo sotto. Goz scuote la testa. No, non regge. I cardinali hanno altro a cui pensare. Devono pensare a difendere il loro potere. E allora perché non rompere i coglioni ai luterani? Perché i luterani possono essere degli ottimi alleati contro la ribellione dei ceti più umili. Chi ha massacrato i contadini a Frankenhausen? Principi cattolici e luterani insieme. Chi ha prestato i cannoni al vescovo di Münster per riprendersi la città? Filippo d'Assia, ammiratore di Lutero. No, no, non sta in piedi. Lutero ha sbancato il Papa, lo ha buttato fuori dalla Germania a calci nel culo. Tutti i beni della Chiesa incamerati dai principi tedeschi. Goz, per reggere l'architrave occorrono 2 colonne. L'ex mercante ci pensa. Mi guarda di traverso. Avversari ma alleati. È questo che vuoi dire? Annuisco. Un agente segreto attivo nei territori imperiali. Da quanto tempo? Più di 10 anni, così mi dissero. Di nuovo, quel presentimento oscuro, una pressione schiacciante dietro gli occhi. Metzger, Niemanson, Jost, Buchbinder, Lott. Tanti e uno, quello che sono stato. Tanti e uno qualunque. L'uomo della folla, nascosto nella comunità, uno dei nostri. Dio citerà in giudizio ogni azione, tutto ciò che è occulto, bene o male. Gotz perplesso. Che vuol dire? La pressione si allenta, il presentimento si scioglie. È la fine del libro di Qelet, l'Ecclesiaste. L'estuario si allarga a vista d'occhio, mentre la nave scivola veloce verso il mare, che già si intravede sull'orizzonte. L'alba proietta i suoi raggi sullo specchio d'acqua davanti a noi e ci illumina la via. Il mare. Eloy aveva ragione. Dà un senso di libertà staccarsi da una costa, lanciare lo sguardo su quella massa infinita di onde. Non ho mai navigato il mare. Un'inquietudine strana, ebbrezza, smorzata soltanto dai pensieri della notte trascorsa. L'equipaggio è composto da un timoniere e 8 marinai, agli ordini del capitano Silas, tutti inglesi che hanno già lavorato con Gotz e di cui possiamo fidarci alla cieca. Parlano la loro strana lingua, di cui riesco già a riconoscere alcune espressioni più frequenti, esclamazioni e bestemmie, credo. Ero giunto ad Anversa con l'idea di migrare in Inghilterra e non tornare più. Adesso sto andando a farci affari. Le cose cambiano imprevedibilmente. Ieri ero uno straccione braccato dagli sbirri. Oggi sono un rispettabile mercante di zucchero con un'assicurazione di 15.000 fiorini sul carico e sulle navi. Getto lo sguardo indietro. La seconda imbarcazione ci segue a un quarto di miglio. La conduce il secondo di Silas, un giovane bucaniere gallese che ha navigato nelle Indie. Il mercante Hans Grueb va a vendere zucchero a Londra. I piatti isolotti della Zelanda, la terra strappata al mare con le unghie, gli scorrono davanti, affollate di gabbiani. E man mano che si diradano, il mare nordico lo accoglie placido col suo blu intenso, cupo come i pensieri che gli affollano la mente della nottata. Il racconto incredibile di Lazarus il risorto mi costringe a tornare ai ricordi di Münster, forse oggi più vividi per averli narrati a Eloy. La domanda è sempre chi? Chi era la spia? Chi lavorava fin dal principio per i papisti? Chi portò impegno denaro per la causa, riuscendo a farsi accogliere tra i rigenerati? Chi? Chi era l'infame? Passo in rassegna a volti, luoghi, occasioni. Il mio arrivo in città, l'accoglienza, le barricate, poi il delirio, la follia. Chi ha lavorato perché tutto finisse così? Ho già detto a Eloy, sono morti tutti, non è sopravvissuto nessuno. Solo Balthasar Merck e i suoi amici. Crechting il giovane? Nemmeno per idea. Ma anche questo è un modo come un altro per ricacciare giù il presentimento peggiore. Uno di noi, un alleato, in grado di ottenere fiducia e di spedirti al massacro al momento giusto. Le lettere. Le lettere a Magister Thomas. Una spia attiva da prima del 24. In Germania. Uno e nessuno. Frankenhausen. Münster. Stessa strategia, stessi risultati. La stessa persona. Qelet.